Siamo state convocate anche noi. Assolutamente. Grazie mille, grazie. Bene, allora siamo tutti convocati. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Un paese che passa la settimana che porta la partita più attesa parlando solo o quasi dell'arbitro è un paese povero. Dovremmo parlare di calcio, delle due squadre migliori d'Italia, e invece da lunedì che si parla di Rizzoli, Orsato e di complotti. Non cresceremo mai, neanche con tutti gli stadi di proprietà possibili e immaginabili, scrive Mario via WhatsApp 349-238-6666. Ma, la notizia del giorno, mi spiace Mario, ma si tinge tutto di giallo spinto. Nicola Rizzoli ieri durante uno sprint, si legge, si è procurato una micro lesione al polpaccio, ha fatto gli esami e dunque non è eleggibile, non è stato eleggibile per questa partita che verrà diretta da Orsato. Ciao Pierluigi Pardo. Come va? Come va? Senti, oggi ovviamente ci toccherà parlare di questo perché è la notizia del giorno. Sì, però saremmo... adesso io capisco che in effetti è abbastanza clamorosa la notizia, ma... io credo che pensare che un arbitro come Rizzoli, che ha diretto la finale del mondiale, che è abituato di settimana in settimana a pressioni indicibili, spesso purtroppo anche di ordine pubblico, perché poi questi sono gli arbitri che vanno magari in Grecia, in Serbia, insomma in situazioni particolari, a dirigere partite particolari, insomma, che possa rinunciare alla libidine di una Juve-Napoli perché spaventato dalle polemiche, francamente mi sembra, cioè, se pensiamo questo, allora vuol dire che non stimiamo Rizzoli. Questo invece, è un tema però. Siccome io lo stimo profondamente, penso che questo sia un infortunio e grazie a Dio, oltre a un grandissimo arbitro come Rizzoli, ne abbiamo un altro diverso, come tra qualche minuto penso ci confermerà Graziano Cesari, diverso dal punto di vista dello stile di arbitraggio, ma altrettanto bravo, che Orsato, che dà secondo me assolutamente le garanzie. Che tra l'altro ha diretto la partita di andata. Sì. 800-24-0024 è il numero verde. Interessante anche sapere come la pensano gli ascoltatori. Io sono allineato con te, cioè ti dico, che Rizzoli sarebbe andato in campo anche. È come dire che se c'è una polemica su Piccinini o su Caressa, Piccinini si tira indietro perché, o Caressa si tira indietro, perché non scherziamo, ragazzi. Ma se fosse stato designatore a Messina, tirarsi indietro. Figurati. Lo chiediamo a Cesare comunque. Vigilia strana comunque. Fuoco tutto intorno, ma nei due accampamenti non una parola fuori luogo, non un atteggiamento fuori luogo, addirittura parti di compleanno come ieri sera per Caleon, e hanno anche cantato. Bravi ragazzi del Napoli a cantare, oramai sono allenati, possono... possono serenamente andare a Sanremo se arrivano in tempo dopo la partita. Sì, magari per alzare un po' gli ascolti, anche se non c'era bisogno, perché Carlo Conti sta andando da Dio, quindi gli facciamo i complimenti. No, io penso che in realtà questo entusiasmo faccia bene a Napoli, faccia bene alla squadra. Ormai le controprove già ci sono da parecchie settimane, lo vediamo continuamente che questa è... che questo entusiasmo, che questo coro ha fatto bene al Napoli, quindi da questo punto di vista credo che il rischio che secondo me candidamente in maniera costruttiva Boban aveva evidenziato qualche giornata fa non si sta verificando, e sono d'accordo con te, i due accampamenti sono perfetti, io ho avuto colloqui privati con giocatori da parte della forza delle grandi squadre è proprio quella del lasciare perdere tutto ciò che è fuori e concentrarsi sulla partita. La verità è che non sappiamo nulla di questa partita, perché questa partita è un grande mare inesplorato fra due squadre perfette che mai come questa volta ci sembrano vicine, però fino alle 20:45 di sabato sera secondo me non abbiamo indizi. Intanto c'è la notizia secondo la quale Toira, sua dichiarazione per quanto riguarda il resto, perché c'è anche il resto, tra l'altro c'è un Fiorentina-Inter meraviglioso domenica sera che racconterai tu, mi pare. Fiorentina Inter, sì. Fiorentina Inter è tua, è roba tua. Tohir ha detto che ha chiesto aiuto a Goldman Sachs per cercare in Cina partner cinesi per l'Inter, mentre con Moratti no, tutto a posto, tutti d'accordo, Moratti rimane tutto sereno, però si rivolge appunto al solito mercato cinese. Sai che oggi si è preso anche Lavezzi, le by fortune, 6 milioni al Paris Saint Germain, indovina quanti a lui per due anni? Beh. 30 milioni per due anni erano? 26. Beh. Pezzenti. Hanno fatto lo sconto. Pezzenti. No, sempre sulla partita di Torino, ovviamente non potevano che mancare le voci istituzionali, la politica locale, Fassino e De Magistris, sentiamo anche loro. Non possiamo che augurarci che la partita sia al livello di queste due squadre, e lo sarà, e quindi sarà un bellissimo match. Quello che io posso augurarmi, come si augurano tutti, è che sia una partita molto divertente, una partita naturalmente, come dire, fortemente segnata da competizione e agonismo, ma anche da serenità e, diciamo, spirito sportivo, come deve essere qualsiasi match, e naturalmente vinca il migliore. Poi io naturalmente spero che quella sera il migliore sia la Juventus. Io ovviamente come sindaco potrei andare, e poi ringrazio molto il presidente De Laurentiis che mi ha chiesto di andare insieme a lui, ed è un gesto bello perché la città compatta che tifa Napoli. Però devo dire la verità, ci ho pensato, il fatto che i napoletani non possano andare allo stadio per ragioni di ordine pubblico, preferisco stare anche io con loro qui a Napoli a tifare per la nostra squadra. Sarà il presidente che rappresenterà allo stadio tutta la città. Dunque, adesso dobbiamo fermarci per il traffico, poi torneremo a parlare dell'infortunio di Rizzoli, di questa grande novità della giornata, poi parleremo di Toscanità Toscani con un toscano allenatore, e poi nella seconda ora, già ve lo dico, torneremo a Napoli per parlare stavolta non del Napoli ma del caso Abbagnale, che secondo me potrebbe addirittura essere rivoluzionario, non uso a caso questa parola, ma certamente è una bella bacchettata a quelli che credono che tutto sia marcio anche nei palazzi dello sport. Traffico. Tutti convocati. Tutti convocati. Dunque torniamo e salutiamo Graziano Cesari insieme in coro, Pierluigi. Sì, sì, 1, 2, 3. Ciao Graziano. Ciao a tutti ragazzi. Ciao. Senti, è giallo per Rizzoli, su Rizzoli oppure no? Io una roba così sinceramente non l'ho mai vista. No, assolutamente no. Non credo proprio che sia un giallo. È solamente un infortunio dovuto a una sfortuna, e quindi non può andare ad abitare questa partitissima. Basta così. Prendiamola così, perché altrimenti sarebbe un giallo anche per Chiellini, un giallo per Mandzukic, tutti i giocatori che si infortunano. Rizzoli è stato molto sfortunato in allenamento, probabilmente è uno stesso tipo di infortunio che ha subito l'anno scorso a Genova, è dovuto abbandonare la partita, questo polpaccio evidentemente gli dà fastidio. L'usura dell'età, dai, 44 anni è un po' usurato. Ma ragazzino, dai. ragazzino. No, quindi escludiamo l'infortunio diplomatico, anche se mi concederete, è curioso, no, dopo questa settimana, che si verifichi questo episodio. Evidentemente ti devo dire una cosa, ecco, forse questo sì, che la settimana è stata molto stressante per Nicola Rizzoli. Evidentemente non ha assorbito, non ha digerito tutto l'interesse mediatico che si è stretto intorno alla sua persona. Se ne è parlato già molto prima di questa designazione, sapevano tutti che andava lui, evidentemente il pathos, lo stress lo ha colpito. Questo sì, possiamo dirlo tranquillamente. Anche se Pierluigi escludeva una pressione di questo tipo su un arbitro di tale esperienza. Ma non significa nulla, cioè le sollecitazioni sono tante. Io immagino la città in cui vive, dove opera, quindi e tutti quelli che lo conoscono, allora la settimana prossima a fare Juventus-Napoli, allora a fare Juventus-Napoli, il gruppo arbitrale si è stretto intorno e le pressioni sono tante. C'è anche questo rischio, certe volte questo stato d'ansia, queste situazioni non sono solamente situazioni positive, possono diventare assolutamente negative. Probabilmente è anche Nicola Rizzoli che ha dichiarato per questa partita bisogna prepararsi molto prima, quindi lui lo sapeva già 15 giorni fa, certo, che andava a fare questa partita. Certo. Evidentemente c'è stato questo contrattempo. Fortunato Sato che potrà andare a abitare questa partita, certo. Bello. meraviglioso, no? Meraviglioso. Meraviglioso. Sono contento, Daniele. No, io penso che sia, come sono, sono diversi, ne parlavamo anche l'altro giorno con Pieri, sì, molto, no? Diversi, Pierluigi, molto diversi, ma altrettanto bravi, possiamo dire. No, sul fatto della bravura ti devo dire la sincera verità, credo che Orsato sia proprio il futuro, ha 7 anni in meno di Rizzoli, 6 anni in meno di Rizzoli, quindi inevitabilmente per lui parliamo di una grandissima carriera. Non per nulla, pochi, quest'estate, l'estate scorsa, ha diretto la semifinale degli Under 20, dei mondiali Under 20, cioè ha diretto Brasile e Senegal, quindi è un po' un percorso molto simile a quello di Nicola. Sono abiti profondamente diversi, perché lo sappiamo, perché fisicamente sono diversi, perché hanno una cultura diversa, perché sono in, si relazionano con i giocatori in un modo totalmente diverso. Certamente non possiamo aspettarci che Orsato sia così dialogante e conciliante con i giocatori come Rizzoli. Quella è la grande forza di Rizzoli, Graziano. Quella è la grande forza di Rizzoli. Questa è la grande forza di Rizzoli, la grande forza di Nicola. Il dialogo, no? Questo essere amico, ma nel contempo pretendere rispetto. Rizzoli non sarà mai, Orsato non sarà mai un amico dei calciatori, cioè non può assolutamente essere un amico, perché il suo carattere è così, quindi inevitabilmente non dico che li veda come nemici, ma sicuramente li vede come avversari. Li vede come avversari. Ma tanto per essere chiari, a me ha molto colpito la puntata l'altra sera, a un certo punto tu hai dato un numero, no, sulle statistiche di Rizzoli con la Juve, sì, che non mi sembrano così positive, al di là di un episodio abbastanza clamoroso che fu, se non sbaglio, Milan-Juve, no? Esatto. Il caso Isla, che è stato insomma una delle... No, guarda, se erano 28 partite, ti dico che ha vinto, ne ha vinte 14, ne ha perse 8, quindi ti dico che è un arbitro da questo punto di vista assolutamente normale. Tieni presente che abbiamo preso in esame l'altra sera dal 2007, quindi le prime apparizioni di Rizzoli con la Juventus sono squadre della Juventus, e chiedo scusa a tutte le grandi squadre, contro le squadre medio-piccole. Certo. Quindi inevitabilmente c'è una facilità di risultato l'uno casalingo, ma per forza di cose. Poi, 14 vittorie e 8 sconfitte, secondo me è anche sotto la media, perché poi considera che dal 2010 in poi la Juve praticamente ha sempre dominato, quindi... Esatto, quindi, c'è insomma, un campionato in cui la Juve non ha mai perso, c'è un campionato infatti, in cui la Juve infatti, ha da 102 punti, cioè, voglio dire, quindi inevitabilmente... Lasciamo perdere, dai, lasciamo perdere, veramente... No, no, queste secondo me sono dietrologia, guarda, non mi piace questo discorso qua, assolutamente, c'è un discorso che non ha... C'è un discorso... può essere un fatto distinto, può essere un fatto di pancia, però poi i numeri danno una sensazione ben chiara, quindi Rizzoli è un arbitro assolutamente equidistante, sì, dal colore, dalle maglie e da tutto il resto, così come lo è Orsato. Questi... Se pensiamo alla partita d'andata, che è finita 2-1 per il Napoli, e Orsato non ha commesso il minimo errore, e c'era Rizzoli come arbitro di porta. Questa volta ci scambiavano i ruoli, inevitabilmente il destino ha voluto che Rizzoli subisce questi infortuni. Torna Rocchi a fare in questo caso l'arbitro con Irrati, l'arbitro... Eh sì, perché la composizione della perna era Rizzoli, Orsato e Rocchi. Quindi inevitabilmente Rocchi scala e va ad addizionale, adesso io non voglio portare sfiga Orsato. Speriamo che non succeda nulla, perché no, l'arbitro, altrimenti sarebbe Rocchi. E Irrati, che sarà il prossimo internazionale al posto di D'Amato, va a fare l'addizionale di porta, quindi... mi sembra abbastanza normale, sono designazioni che purtroppo sono talmente facili da fare, ed è questo che mi preoccupa moltissimo, perché quando uno fa le designazioni facili, significa che non c'è competizione nel gruppo arbitrale, significa che è tutto livellato e che c'è solamente uno o due punti dell'iceberg e basta, quindi troppo facile. Noi stiamo facendo un discorso credo tecnico e perfetto per quanto riguarda Graziano Cesari, poi potete però immaginare la dietrologia che si scatenerà sui social e che già si scatena sui messaggi, che magari pure con le telefonate non lo so. Certo, perché questo è il paese però non possiamo far finta che non sia così. Non possiamo, noi siamo italiani, sappiamo siamo bene. Fatti così, no? Sì, certo. Quindi se fossimo in teoria avremmo un'altra mentalità, noi siamo italiani, lo diciamo, allora... si è fatto male perché pensava alla partita, perché poteva nuocere per la carriera, però non ti devi dimenticare che tra qualche settimana c'è il Juventus Inter, tra qualche settimana c'è la Roma-Napoli, grande partita. Ma sì, ma infatti ma no. Quindi è una roba così, anzi io credo che, ti dico la sincerità, per quello che ho vissuto io nella mia carriera arbitrale, manchi un appuntamento di quel tipo lì, allora ti girano. Come no? Ma stai scherzando? Io sono sicuro. Ti girano come girano i giocatori, ma stai scherzando? Ma guarda, dietro a qualsiasi cosa importante della vita c'è sempre una componente di di stress e di pressione. Se fai un lavoro pubblico, se fai il lavoro dell'arbitro, Graziano ce lo insegna, chiaramente questa cosa vale 2, 3, 4, 5 volte, però è comunque così. Cioè non è che Carlo Conti non fa Sanremo perché ha paura, quest'anno non ha fatto Sanremo perché ha paura di non ripetere il risultato clamoroso dell'anno scorso, la fa. Quindi che Rizzoli sicuramente abbia vissuto una settimana di tensione non c'è dubbio, ma che possa aver deciso lui di non fare la partita, no, perché ma mi sembra una cosa che non sta, cioè è come dire che Higuain o Dybala non si presentano sabato perché non se la sentono, non se la sente perché c'è troppa pressione addosso se perdono, cioè capisci, è proprio. Ma guarda, io ti dico una cosa, io ho vissuto il sistema, il sorteggio, no, ti ricordi quando c'era Nellulla che mettevano le palline per una partita e mettevano 4 arbitri per una partita, è chiaro che tu volevi che scegliessero la tua pallina perché ti dà prestigio, perché ti dà popolarità, perché insomma è un'ambizione. L'arbitro è un ambizioso, è un narcisista. Se non va a fare quelle partite lì, che partite deve andare a fare? Certo, certo. Senti Graziano, invece dal punto di vista tecnico, quali saranno, esistono delle chiavi di difficoltà in questa partita per l'arbitro? Beh, esistono tantissime chiavi di difficoltà, innanzitutto per la vicinanza in classifica, per la conoscenza e la rivalità dei calciatori. Sì. Perché ci sono degli attacchi che possono segnare in qualunque momento e soprattutto sarà importantissimo vedere bene, adesso nell'area di rigore è chiaro, ma fuori dall'area di rigore, perché ci sono tantissimi giocatori che possono decidere la partita con un calcio di punizione, con un'intenzione personale, quindi questo sicuramente sarà molto importante. E poi la chiave di lettura, guardiamo quale messaggio darà Orsato ai calciatori. Sì. Io credo che sarà intransigente dall'inizio, non credo che lascerà passare qualche fallo sopra le righe, qualche situazione imbarazzante. Credo che i cartellini verranno fuori immediatamente, anche perché stavo guardando prima il percorso di Orsato, è un arbitro che 7, 8, 9 cartellini, quindi non scherza molto. È che lui è già il sesto match importante di questa stagione, quindi insomma, sì. Voglio dire, quando uno comincia a farmi con Fiorentina Milan, comincia a fare Napoli-Juventus, e poi fa Napoli-Inter, poi fa Juventus-Fiorentina, insomma, proprio male non lo è. No, di sicuro. Grazie. Grazie a voi. Grazie, mitico Graziano. Ciao. Senti Pier, un paio di ascoltatori prima della bozza. Sì. Salvatore Torino, buongiorno. Buongiorno, saluto Pardo. Io sono un tifoso della Juve. Volevo lanciare un appello al presidente della Juve, Andrea Agnelli, che sabato inviti il presidente De Laurentiis a vedere la partita insieme a lui per dare un segnale forte al mondo del calcio. Sarebbe un bel gesto. Lo so che è difficile, però magari non sarebbe male, ma assolutamente splendido, ma non sarebbe nemmeno molto così difficile. Molto spagnolo e nemmeno così difficile, conoscendo Agnelli e De Laurenti, secondo me assolutamente ci sono le condizioni per poterlo fare. Ma guarda, io penso che poi in realtà stiamo parlando di persone che hanno ovviamente una grande cultura manageriale, che hanno creato due società modello diverse, ma entrambe sicuramente di grande successo, e stiamo parlando, non mi sorprenderebbe affatto, ma no, stiamo parlando di due persone che stanno benissimo, perché no, che stanno benissimo, che si può dare il buon esempio, che quindi secondo me una roba del genere la possono tranquillamente prendere in considerazione senza particolari problemi. E magari può essere più difficile quando succede qualcosa, ma ripeto, mai come quest'anno il campionato e questa partita arrivano in un momento in cui il clima è sereno, quindi mi unisco all'appello e penso che non sarà difficile. Adesso non so se la vedranno vicini proprio alla spagnola, ma sicuramente si vedranno e si stringeranno la mano. Se magari dalla Juventus vogliono farci sapere di avere questa intenzione, noi la diremo, l'annunceremo pubblicamente con grande piacere. Nicola Ferrara. Sì, ciao Pier, ciao Carlo, ciao. Grazie per la convocazione, ciao. Volevo parlare di Juve-Napoli, perché sono juventino, però ho due o tre cose sentito parlando con Cesari, degli arbitri, e mi hanno un po' scandalizzato, anche perché ho giocato calcio, anche se a bassi livelli, prima categoria, così, ma quando ha detto che è avversario, li sente un po' come avversari, i giocatori, l'arbitro. Io credo che, vedendo anche un po' di Serie C, perché a Ferrara vado allo stadio spesso, a vedere la Spal, quest'anno e anche prima, in C1, speriamo che sia l'anno buono, chiuso parentesi, vedo un po' che c'è questo atteggiamento di molti arbitri, essere un po' troppo forse scontrosi, un po' troppo, tra virgolette, cattivi con i giocatori. Ovvio che certi giocatori ce lo meritano anche, però credo che altri ristoli a livello di, come dire, di carattere ci vorrebbero. Cioè, sì, meno sono... a me piace di più l'atteggiamento di uno come Rizzoli, collaborativo nei confronti dei giocatori, però quel avversari credo che sia da leggere in una chiave diversa, eh. Non è che va lì per litigare. A me Rizzoli piace moltissimo. Anche a me piace. Proprio per quello che dicevi tu, perché mi sembra un arbitro che riesce, nonostante insomma la delicatezza del suo ruolo, l'autorità del suo ruolo, ad avere un rapporto molto civile, molto elegante con i giocatori e di grande collaborazione. Ora, questo migliora anche lo spettacolo, perché questo se ti dicono stai attento a questo, stai attento la cultura sportiva. Aiuta i giocatori a giocare, capito? Assolutamente. Questo dovrebbe anche migliorare la cultura sportiva, cosa che poi purtroppo in qualche caso invece è più difficile da portare avanti. Detto questo, insomma, tecnicamente mi sembrano due grandi arbitri. Io non sono un appassionato di arbitri, cioè non sono appassionato di dietrologie arbitrali o di cose. Anche perché io faccio veramente fatica tante volte, anche laddove ci sono stati degli errori, faccio veramente fatica a capire l'eventuale condizionamento dove sarebbe. Cioè, se un arbitro sbaglia, diciamo, se c'è un arbitro, se ci fosse anche una diceria che è a favore di una squadra, questa cosa come lo condiziona? Lo condiziona in positivo ancora nei confronti di quella squadra o lo condiziona in negativo per dimostrare che non lo è? Quindi diventa alla fine tutto talmente ridicolo, secondo me, talmente aleatorio, che poi alla fine, soprattutto nel calcio di oggi, in cui ci sono le telecamere, che non è che puoi pensare che l'errore rimanga così sotto silenzio. Sì. Secondo me gli arbitri l'unica cosa che pensano a fare è a sbagliare il meno possibile. Questa è l'unica considerazione, indipendentemente dal colore delle maglie. Poi, storicamente, le società più grandi, più forti, ma da questo punto di vista il Napoli è forte come la Juve. Cioè, siamo a pari livello. Storicamente, sulle grandi ci sia più attenzione. Che ci sia questo famoso elemento della solidanza psicologica, che però, ripeto, è lo stesso che noi abbiamo nella nostra vita, perché se noi abbiamo davanti il capo ufficio oppure ci abbiamo davanti uno sconosciuto, magari ci comportiamo in maniera differente, lo possiamo sempre ammettere pacificamente. Fermiamoci un attimo per la borsa, torniamo subito. Tra poco seguiremo tutto, prima però spot per noi. Seguiteci su Twitter @tutticonvocati. Si ricomincia. Convocati. Problema. I confini della Toscana hanno uno sviluppo di 1330 km, di cui 329 costieri, 249 insulari, 752 terrestri, che la dividono da Liguria, Emilia, Marche, Umbria e Lazio. La sua superficie è di 22.940 km², di cui 5.800 di montagna, 1.930 di pianura e 15.260 di collina. I fiumi della Toscana sono l'Arno, lungo 241 km, il Serchio, lungo 103 km, l'Ombrone, lungo 161 km, il Cecina, lungo 76 km. Si domanda, quant'è alta la Torre di Pisa? Un signore di Scandicci, buttava le castagne, buttava le castagne e mangiava i ricci. Un suo amico di Lastra Signa. Tutta la toscanità possibile. Sapete, sta parlando anche Spalletti. Sentiamo il toscano di Spalletti e poi parliamo con un altro allenatore toscano. Perché hanno qualità un po' diverse, è chiaro che poi quello che si dice sempre dell'equilibrio di squadra bisogna ritrovarlo attraverso la loro disponibilità, attraverso violentarsi nel fare di più attenzione per certi atteggiamenti, oppure che quegli altri siano disponibili a correre anche per l'altro verso, per chi in quel caso lì non può poi aiutarlo, perché se gli fai determinate richieste qualche cosa gli togli nell'altra disponibilità, insomma, però possono coesistere. Non so di chi stia parlando, ma forse di Zeko. Allora, È toscano di mare come Allegri, ma andava in panchina in tuta come Sarri. Corrado Enrico, buongiorno. Buongiorno. Grazie di essere con noi. È più vicino all'uno o all'altro come mentalità calcistica? No, gli allenatori non sono mai simili, non sono mai uguali, ma neanche simili. Sono diversi, perché diversa è l'estrazione, diversa è la cultura, diversa sono le abitudini. Quindi siamo diversi tutti e tre. Siete diversi tutti e tre. Quanto conta l'essere toscano di terra o di mare? Se ne è letto e scritto molto, anche Gianni Mura ieri ha fatto un meraviglioso pezzo su Repubblica. Ma guardi, le esperienze del mare, quindi del porto, quindi di Livorno, sono molteplici, consentono di avvicinare personaggi che vengono da lontano e quindi esperienze diverse. L'entroterra, che è la terra di Sarri, l'entroterra è più protetto e quindi più incline a meditazione. Quindi i personaggi che ne escono sono nettamente diversi. Sì. A noi piacciono tutte e due, Pierluigi Parra. Ma sì, ma infatti, buongiorno mister, qual è il segreto di questa Silicon Valley del calcio italiano? Nel senso che comunque non può essere statisticamente, cioè ci deve essere una correlazione statistica, il fatto che in Toscana ci siano così tanti allenatori, in Toscana forse c'è Coverciano, è anche questo, ci sono tante squadre a livello giovanile. Qual è il motivo per il quale così tanti allenatori toscani si sono fatti strada? Ma perché il toscano di per sé sembra tagliato apposta per fare il capociurma, per fare vedi, abbiamo anche il presidente del consiglio toscano, non dimentichiamolo. C'era Fanfani prima, no? Che c'è? Dei grandi politici toscani. E sì. Quindi c'è questa inclinazione a volere, come dire, suggerire se non comandare, essere riferimento per se c'è un gruppo puro, quasi sempre toscano, per dare gli input necessari. Quindi è la storia di questa regione che è notevole. Ora non sto qui a citarvi i grandi uomini che hanno caratterizzato questa regione, i movimenti culturali del periodo di qualche secolo fa, per non arrischiare con qualche errore il periodo. Di qualche secolo fa partivano tutti dalla Toscana, era addirittura il caposcuola per l'Europa questa regione. Sì. Quindi il patrimonio è quello, lei capisce bene che non è che si possa cancellare il patrimonio, rimane, viene rinverdito e quindi troviamo, e non dimentichiamo che oltre a quei due lì c'è anche Figo Spalletti, rappresenta ancora una visione diversa, il quale è più sofista degli altri tre. È più sofista? In che senso? Sì, è più elaborato nel linguaggio, mentre gli altri due sono scarni, parlano sull'essenziale, mentre Spalletti divaga e tende a svelare segreti che sfuggono ai più. Questo non è male, Pardo. Beh, è vero, Spalletti è vero, un vero, linguaggio, vero. Una ricerca, no? anche delle movenze. Si sforza proprio, ma lui è quello più vicino, come anche all'interno della regione, come dicevo prima, sono delle mappe da scoprire e Spalletti è una mappa vicina a Machiavelli, è nato, dove ha esercitato Machiavelli, il quale tutti che sia fiorentino invece viene proprio dalle zone di Spalletti e quindi lui è il portatore di quel linguaggio così di previsione, si arrovella su argomenti che con un vocabolo sarebbero semplicemente chiariti. Verissimo. E invece lui cerca qualche volta si incasina pure, si fa pure un po' fatica a capirlo. Per esempio quella dell'altro giorno, ho fatto scrivere formazione ai giocatori, tutti hanno scritto 11 giocatori, se ne scrivevano 14 ne facevo giocare 14, quella lì ci penso ogni tanto ma faccio davvero faccio un po' fatica a capirla. Senti, Pier, fermiamoci, c'è traffico, un secondo poi solo torniamo. E torniamo da Corrado Enrico. Tutti convocati. tutti convocati. Luigi Pardo, cosa stavi dicendo? In cosa sono diversi, visto che sono toscani tutti e due, sono bravi tutti e due, ma insomma c'è qualcosa in cui sono diversi? E in cosa? Mister, ho sentito male. No, dico, in che cosa sono diversi Sarri e Allegri? In tutto, per esempio anche nell'organizzare la squadra, mentre Allegri è sempre alla ricerca di cose nuove per migliorare l'assetto, ha sempre mille dubbi sulle scelte, mentre Sarri è più pragmatista, come vedete dalle formazioni sono quasi sempre uguali, mentre Allegri spesso si crea delle sorprese in formazione e anche negli stessi moduli galleggia quando gioca a difesa 3, quando a 4, e quindi sono molto diversi anche sulla scelta tattica, poi sono molto diversi sulla personalità, e io ho già detto uomo di mare, è uomo di profonda terra, di profonda regione, e ancora sono diversi anche nella rappresentazione fisica. Di fronte abbiamo un antico romano, sì. Sarri, mentre Spalletti sembra un lord inglese, sì, quindi sì. Non trovo niente di speciale se non una leggera inflessibilità toscana che emerge in tutte e due. Sembra quasi però che Sarri abbia dentro la rabbia di chi è arrivato troppo tardi, e che sembra che abbia quasi qualcosa di personale, al di là dell'episodio con Mancini, quasi qualcosa di personale nei confronti dei predestinati, di quelli che hanno fatto meno strada di lui. Sembra che abbia una rabbia diversa, è possibile? Ma in quello non deve orientarsi verso Allegri, il quale anche lui è venuto dalla gavetta, ha fatto un lungo tirocinio e tutti i successi che ha ottenuto sono largamente meritati. E invece abbiamo degli esempi che dal campo vanno in panchina e che quindi potrebbero essere quelli gli orientamenti di Sarri, ma non credo, non mi sembra un uomo da vendette, o meglio ancora da recriminazioni. Lui sta ottenendo per merito quello che per anni ha inseguito, sì. Facendo del calcio autentico, ragionando, impegnandosi dei 10 ore al giorno sul suo lavoro, studiando filmati, applicando, studiando prima i suoi, ha studiato a fondo, fino al punto che era partito con uno schema e poi velocemente è ritornato al 4-3-3. Segno di grande intelligenza. E quindi siamo di fronte anche lì a due personaggi nettamente diversi. Non c'è niente che le porti, se non l'origine regionale, ma anche dentro la regione c'è una differenza fondamentale. Sì. Dicevi, Pier? No, che assolutamente non è così. Credo che il famoso episodio della frase per Mancini, però in realtà nel suo subconscio fosse quello, cioè lui gli volesse dire che era tutto immagine, capito? Che era immagine in un momento di rabbia, in un momento nel quale magari Mancini però insomma io credo che questo, sono d'accordo con Enrico, credo che questo sia l'orgoglio di Sarri, cioè l'orgoglio della gavetta. Sarri ce l'abbia giustamente, legittimamente, tutto con sé, perché è veramente un uomo che è partito dalla strada, che ha lasciato comunque, non dimentichiamocelo, un altro lavoro che non c'entra niente col calcio, che si è affacciato molto recentemente in questo mondo a questi livelli, quindi secondo me lui questo orgoglio ce l'ha, ma non credo appunto che sia un orgoglio di rabbia nei confronti degli altri, credo che sia semplicemente... No. L'orgoglio di chi però ci tiene a sottolineare questa diversità. La tuta secondo me, al di là della comodità, è anche una scelta di immagine. Sì. Direi che difende il suo lavoro, perché sì, se l'è studiato profondamente, quindi ora lo difende. Per quanto riguarda l'episodio di Mancini, io ho un'opinione nettamente diversa dalla maggioranza. Io ho trovato vergognoso la speculazione pubblica di Mancini su quell'episodio, che pure è grave, perché non si offendano le persone, ma che poteva necessariamente, nel rispetto dell'uomo, scuse immediate di Sarri nello spogliatoio, doveva ritenerlo chiuso l'argomento. Invece ha fatto quella sceneggiata in TV che non gli fa onore. Io sono d'accordo con lei, l'ho anche detto più volte. Grazie Corrado Rico. Grazie mister. Buon lavoro. Grazie. Grazie. Intanto prende quota Pier la voce di oggi, mi sembra sia uscita dal sito Mediaset. Secondo lui Sabatini andrà via a fine stagione. È stato chiesto a Spalletti e ha detto che è un'ipotesi che Sabatini se ne possa andare. D'altra parte, annunci di addio alla Roma causa contrasti con Pallotta, Sabatini ne aveva già fatti. Questo per la cronaca, visto che l'ho appena detto. Antonello, provincia di Milano, buongiorno. Sì, buongiorno, mi sentite? Sì, dica. Senta, riguardo sempre la questione arbitrale, io sono tifoso della Juventus, ho 53 anni, e dalla notte dei tempi, che ogni volta che la Juventus deve giocare una partita importante, le squadre avversarie, specialmente le squadre che hanno delle problematiche loro, vedi Roma e purtroppo vedi Napoli, in questo caso non ne ha proprio bisogno, di lamentarsi di un presunto arbitraggio a favore della Juve. Io mi ricordo che negli ultimi anni, non andiamo indietro, negli ultimi 5 anni, la Juventus, per esempio, in una finale di Coppa Italia 3 anni fa, c'era un rigore al 43esimo su Marchisio, non venne concesso, nel secondo tempo venne dato su Lavezzi e vinse 2-0 il Napoli. Sì, però, Antonello, però vorremmo chiarire che il Napoli non ha detto una sola sillaba su questo argomento. Mi sbaglio per Luigi, mi sono perso qualcosa. Sì, sì, ma io ho trovato il comportamento delle due società ineccepibile in un senso e nell'altro. E basta, e quindi faccio i complimenti alle due società, avremo una grande partita, un grande arbitro, andiamo oltre, cioè non veramente mi sembra una vicenda della quale abbiamo parlato ai noi anche troppo, ecco, lo dico proprio anche con un pizzico di delusione personale, di fastidio personale, perché veramente non... Io, se c'è la parola di arbitri dopo, se c'è la parola la moviola degli episodi arbitrali dopo, penso che vada fatta, perché fa parte della nostra cultura, ovviamente con rispetto, ricordando, partendo dal presupposto della buona fede degli arbitri, partendo dal presupposto della difficoltà del lavoro dell'arbitro, che è un lavoro complicatissimo nella forma e nella sostanza di quello che fanno, perché arbitrare è difficile e poi con tutte le pressioni che c'è attorno può diventare ancora più complicato. Ma questo se ci sono degli episodi, e ho sottolineato, ne parlavo pure prima con Graziano, che questo è un campionato benedetto, io me ne accorgo dal quantitativo degli interventi del professor Cesare Antichitaca, che sono molto meno rispetto per esempio all'anno scorso. L'anno scorso è stato un anno che è partito la sesta giornata con quell'arbitraggio di Juve-Roma che ha finito per avvelenare il clima. Sì, però vedi anche che finalmente la benedettissima goal line technology ha levato, sì, almeno 3-4 castagnole dal fuoco. Certamente ha aiutato in tante situazioni. Quello è importante. Poteva essere il Genoa contro la Roma. Quello è importante. Poi importante, Roma, importante. Appunto, a proposito di goal line technology, con i compassi, ti ricordi le lenti. Ma dici, ma che quest'anno, bello. Grazie a Dio, non abbiamo nulla di tutto questo. Godiamocela e divertiamo. Ciao Pier, ci sentiamo domani. Sì, sì. Certo. Ciao Pierino, ci fermiamo per il GR. Walter dalla provincia di Forlì, senta con noi il GR, poi parliamo subito dopo. Saluto anche Gianluigi Pardo. Tutti convocati. Amore. Amore. Amore. Amore. Amore! Amore! In quanti modi possiamo dire la stessa cosa? E cosa succede quando una parola assume un significato diverso da quello che volevamo? Dipende tutto dalla nostra voce. Voice Anatomy, un programma di Pieno Insegno, io, in onda tutte le domeniche alle 14.30 qui su Radio 24. Dimenticavo, lasciate un messaggio alla nostra voice box 828 12 12. Potreste scoprire di avere un futuro in uno dei nostri mondi. Ascoltaci anche in digital radio. Che dire? Arrieccici. Tutti convocati. Giuseppe Carmine, ultimi 250 metri li distaccano dalla gloria immensa di una vittoria olimpica. Giuseppe Carmine a Bagnale in testa, si presentano a 150 metri dal traguardo. Attenzione alla Germania dell'Est, all'inferno che sta attaccando proprio in questo momento. Un finale incredibile della Germania dell'Est. Mentre Giuseppe Carmine hanno patito un momento di blackout ci sono ancora 50 metri con la Germania dell'Est che sta rimanendo fortissimo, reagisce comunque Giuseppe che regge magnificamente, sta reggendo negli ultimi 10 colpi, rinviene la Germania, ma la prua italiana è la prima a vincere davanti alla Germania dell'Est e vince davanti addirittura alla Gran Bretagna che è solamente terza. Io credo che quei colpi di remo siano stati per Giuseppe Abbagnale una piuma in confronto a quello che, come abbiamo letto oggi su tutti i giornali, da presidente della federazione ha dovuto dare in questi giorni. Buongiorno Giuseppe. Buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno a tutti. Mi sbaglio? Credo che... Non ti sbagli, però tengo a ribadire una cosa molto chiara, soprattutto... trasparente. Sì. Questa mia uscita è stata, diciamo, forse per certi aspetti forse fin troppo preventiva, ma tenevo soprattutto a che il nome Abbagnale, il nome soprattutto della Federazione della Canottaggio, non venisse in qualche modo travisato e accostato praticamente a un problema doping. Sì. Che ripeto, Vincenzo rischia un'ipotetica squalifica, ma non per uso di sostanze dopanti, certo, ma perché ha mancato tre controlli. Sì. E siccome c'è un regolamento in merito che dice al terzo controllo mancato si può incorrere una squalifica che può arrivare fino a 2 anni, è il rischio concreto che Vincenzo corre. Naturalmente a supporto di questo ci sono una serie di motivazioni che lui dovrà produrre per vedere se la commissione praticamente ritiene queste diciamo giustificazioni. Ma mi sembrano plausibili, no? In un caso c'è stato un incidente stradale mentre stava andando al controllo? Sì. Ci sono una serie di passaggi anche telefonici scambiati con l'operatore che era proposto praticamente al prelievo. Quindi è dimostrabile che Vincenzo stava arrivando e praticamente si è trattato di circa 5-10 minuti di differenza tra l'ora di arrivo e l'ora di andata via da parte del medico abilitato. Quindi questa è chiaramente, poi sono successe una serie di impedimenti lungo la strada e questo è sicuramente un fatto concreto e un fatto diciamo facilmente dimostrabile, però ripeto qui parliamo di un aspetto particolare, esiste una regola e adesso bisogna vedere la commissione come interpreta praticamente questa regola. Sì, certo. Tengo a precisare una cosa fondamentale: Vincenzo negli ultimi 3 anni credo che sia stato sottoposto almeno a una decina di controlli antidoping, per cui non c'è il benché minimo dubbio che lui potesse essere associato praticamente a questa problematica. Sì, anche perché ho letto l'ultima frase che mi ha colpito molto della tua intervista al Corriere della Sera di oggi: sul doping sono più che un talebano, se avessi il minimo dubbio che Vincenzo non è a posto, sì. Non lo farei sanzionare solo sul piano sportivo, ma lo manderei in galera oggi stesso. Sì, ripeto, siccome sono uno come dire estremamente disciplinato, a dire poco sull'aspetto doping, e soprattutto ne ho fatto sempre anche attraverso la mia carriera sportiva e da dirigente una forte battaglia di prevenzione, ma soprattutto di lealtà dal punto di vista sportivo, quindi sicuramente se avessi il benché minimo dubbio su questo sarei integerrimo. Lo sono comunque perché naturalmente da padre, ma soprattutto anche da presidente federale, ritengo che se uno sbagli se ne assume anche le responsabilità. Ripeto, questo è il fatto in sé. Certo. Voglio anche ribadire un concetto, questo forse va anche in un contesto un po' più generale. Questa normativa, questa regola è un po' per gli atleti è un po' stringente, soprattutto un po' tortuosa e un po' farraginosa per certi aspetti, quindi qui potrei anche aprire un discorso di interazione da parte. Ma l'abbiamo letto, Giuseppe, sì. L'abbiamo letto con le storie dell'atletica, cioè è venuto fuori anche una certa inadeguatezza di questa piattaforma, sì, che la vada predisposto, della piattaforma Adams che la vada predisposto per regolare, sì, i controlli. Quindi sì, possiamo anche infatti, dire, magari c'è negligenza dell'atleta, però magari davvero qualcosa, certo, non funziona, perché certo, molti indizi possono anche fare una prova, no? Certo, certo. Considera che praticamente lui è incappato nella seconda ammonizione quando è passato dal sistema Waterbout al sistema Adams. Sì. Per cui sono cambiate delle dinamiche e lui, pur avendo compilato come dire, il suo piano di reperibilità, non l'ha spedito. E quindi in maniera non lo so, un po' superficiale o anche pure una questione di ignoranza sul meccanismo, questo è sicuramente un problema che va affrontato un po' più ad ampio raggio. Gli atleti dovrebbero avere poi delle giuste come dire, istruzioni sul meccanismo e sul come utilizzare poi il sistema. In più mi dice per esempio mio figlio, e questo lo andrò a verificare poi un po' più in maniera più approfondita, dice che col suo iPhone, sì, non riesce a entrare nel sistema, per cui lui, pur volendo praticamente aggiornare questi dati, non lo riesce a fare perché il suo telefonino non è compatibile con questa piattaforma. Ora non so se è vero, ma probabilmente ci sarà qualche ceppo, o lui non è capace, ma credo che oggi i ragazzi difficilmente, sì, non siano capaci di utilizzare esatto. Quindi se lui me lo dice, io non posso che crederci, sono io che sicuramente sono ignorante in materia. Però evidentemente c'è sicuramente qualche problema anche esiste, anche perché sì, si è ripetuto in diverse occasioni un tipo di, certo, problema, e per diversi sport un tipo di problema di questo tipo, certo, e lo sappiamo, certo, bene. L'ultima cosa ti chiedo: sei più incazzato come genitore di un atleta o come presidente? Sono incazzato alla stessa maniera come presidente e come padre, perché naturalmente qualsiasi atleta per me è come se fosse un figlio, per cui al di là del fatto che in questo caso Vincenzo realmente è mio figlio, ma fosse stato un qualsiasi atleta che in questo momento fa parte del gruppo della nazionale, che è in preparazione per i Giochi Olimpici o che è in preparazione per la ricerca di una qualifica per i Giochi Olimpici, mi sarei incazzato in maniera uguale. Un'altra cosa voglio ribadire. In tutte e tre sarà una combinazione, ma in tutte e tre questi avvertimenti che ha avuto Vincenzo, in tutte e tre lui non è che non era reperibile, guarda caso era in raduno, e naturalmente questo significa che la federazione da parte sua comunque invia non vuole essere una giustificazione, lo dico prima perché si tratta solo di capire. Esatto, però per capire, in tutte e tre le situazioni lui era in raduno con la nazionale, quindi la federazione da parte sua comunque invia al controllo antidoping la convocazione con i nominativi che fanno parte del raduno. Sì. E certo, questo non fa fede, perché fa fede quello che praticamente l'atleta in prima persona inserisce dentro il sistema, però questo ha ulteriore dimostrazione che praticamente lui non è che era, come dire, a Chicago, a Parigi o da qualche altra parte a fare cose come dire, insensate. Sostanzialmente lui era in raduno con la nazionale, quindi perciò dico, ci sono una serie di leggerezze. Questo non lo giustifica, perché lui naturalmente, io oggi proprio incontrandolo, gli ho detto una cosa fondamentale: probabilmente tu non sei maturo per affrontare una competizione di così tale portata, di così tale importanza, perché comunque hai trascurato un particolare, e siccome queste competizioni di così ampia portata, così di ampia visibilità richiedono l'attenzione al benché minimo particolare, vuol dire ovviamente tu non sei ancora preparato. Questo per dire come io ragiono su questo aspetto. Sì. Volendo pure accogliere tutte le sue giustificazioni, naturalmente capisco che c'è anche il pizzico della coda del diavolo che poi ci si mette e uno arriva per 10 minuti di ritardo. Però è anche vero che praticamente uno deve fare pure più attenzione su questi, sì, su queste cose. Sì. Grazie Giuseppe, grazie davvero. Grazie, complimenti, complimenti, perché credo sia stato un gesto rivoluzionario questo. Se avete capito bene la vicenda, se non avete capito bene, riascoltate o rileggete. Nonostante tutto quello che ci dicono i soliti dietrologi. 800240024, il numero verde. Massimo, buongiorno. Buongiorno a voi signori. Dica. Innanzitutto vi ringrazio di avermi convocato. Grazie a lei. Io volevo naturalmente ringraziare Giuseppe Bagnale, perché come al solito è stato un uomo con, come dicono dalla mia parte, con gli attributi. Sì, come anche dite secondo voi, me. Avere anche in altri sport di gente così andiamo molto meglio tutti. Anche secondo me, anche se io mi rendo conto c'è un sacco di gente magari scottata, magari delusa da episodi recenti che hanno toccato lo sport italiano, che ci hanno bruciati, ci hanno fatto male, non ci credono, sono molto... come dire, suscettibili sull'argomento, secondo certo, me certo. Ma perché forse si guardano intorno e capiscono che anche volendo cambiare è molto difficile, anche volendo cambiare è molto difficile, però con gesti con storie come questo si può cambiare, speriamo me. Speriamo che futuro di ragione. Io vorrei cambiare argomento, sì, tornare sul calcio, sì, chiedervi una cosa. Prima cosa, se un'italiana vince la UEFA League, è possibile che di avere 4 squadre in Champions? No. No? No. Benissimo. Sì, sì, è possibile. Sì, è possibile. Ah, è possibile, sì, vede? Sì, possibile. Sì, mi pareva, sì. Anche se qui la vince ed arriva secondo in campionato, primo in campionato, sì, nostro? Sì, sì, sì, è possibile. Benissimo. È l'unica strada. L'unica strada, che siccome sento sempre parlare della quarta squadra, è possibile averla. Seconda cosa, io ho visto molte partite, come tanti avete visto le partite naturalmente, sono convinto che sabato la Juventus vincerà 3-1, perché è troppo... Abbiamo anche il risultato, allora mi dica anche i marcatori. Marcatori glielo dico, segnerà Alessandro, sì, poi Pogba e alla fine Morata. Prendo nota, per il Napoli... E naturalmente Higuain, naturalmente. Naturalmente, Çavuşoğlu, Gonzalo Higuain, quello non lo quotano neanche. Poi cosa voleva dire? Poi volevo fare un piccolo assunto. Io vi ascolto da parecchio tempo e siccome vivo in macchina, facevo questo piccolo giochetto. Calcolavo i tempi con cui voi parlavate rispetto all'orario definito, nel senso che sì, voi fate la trasmissione dalle 2 alle 3 e mezza, sì, e all'inizio parlavate più o meno per 44 minuti. Ora, sì, dopo un po' di mesi, siete scesi a 34 minuti. Il resto è pubblicità, interruzioni varie, queste storie qua. Volevo solo fare questo piccolo conto. Va che bene, parlate sempre di meno. A noi ci interesserebbe che voi parlaste un po' di più. Beh, ma se gli inserzionisti ci vogliono bene, siamo tutti contenti. No, poi... Ovviamente stiamo giocando, però se gli inserzionisti ci vogliono bene, siamo contenti. E io ringrazio tutti perché il programma in effetti... piace, grazie. Walter, provincia di Forlì, buongiorno. Buongiorno, guardi, io arrivo a proposito per... A proposito, sì. Ha visto diverse mesi dall'ascoltatore di prima sul risultato di sabato sera. Ma finisce? Tutto, buongiorno. Buongiorno. Io sono romagnolo a tutti gli effetti, un gran juventino, sì, ma con grandi simpatie per il Napoli. Questo non si può, c'è conflitto di interessi, Walter. No, è lo stesso comunque. Veramente, so, perché io sono un amante del sud in generale. Quindi anche per il Napoli si vince. E quindi questo conflitto interiore come lo risolve? No, bene, che ho mia moglie che tifo molto Napoli, io tifo Juventus, ma con grandi simpatie. Cosa volevo dire semplicemente, se riesco? Dica. Sarri, che non è uno stupido, e il Napoli, io credo che abbiano l'occasione della vita, anche per i vari infortuni che la Juve ha in questo momento. E penso che ce la giocheranno la partita. E penso un'altra cosa, credo, sento che vinceranno. Vincerà il Napoli. Pronto, Walter? Pronto. Ha detto vincerà il Napoli? Secondo me vince il Napoli, perché ha l'occasione della vita. Perché se vince il Napoli è chiaro che sposta gli equilibri enormemente. E beh, sì, andrebbe a più 6, fuga vera, non decisiva, io credo, con così tante partite ancora da giocare, però... sarebbe l'unico risultato in grado di cambiare davvero le carte sul tavolo, perché a quel punto 5 più 1 dei confronti diretti farebbero 6 punti di vantaggio sulla Juventus. Io posso dire la verità, io a quante ore mancano alla partita? 48 e qualcosa? Io un'idea sul risultato non ce l'ho, giuro, non ne ho idea. Carmine, provincia di Como. Buongiorno gente, grazie buongiorno per la convocazione. Grazie a lei. Ma da tifoso del Napoli mi auguro che vinca il Napoli. Però io ho chiamato per un'altra ragione, visto che ci sono sempre delle polemiche arbitrali, no? Sulle designazioni, sul post gara, mi sono sempre chiesto perché proprio dal mondo arbitrale avvengono le maggiori resistenze per l'introduzione della tecnologia. Lei prima parlava della instant replay che ha risolto alcuni problemini. Non sarebbe del appunto goal line, della goal line technology. Technology, esatto, che ha risolto alcuni problemini. E allora perché non fare il salto del rubicone, no? E introdurre la tecnologia, come avviene un po' tutte le altre professioni, no? Dalla magistratura che deve indagare oppure da chi deve operare in sala operatoria. Sì, ma siamo in ambiti diversi, poi lì è questione di gusti. A me il calcio piace così com'è, anche con eventuali polemiche arbitrali, sviste, cose su e argomenti di cui discutere. Sono sempre stato favorevole alla tecnologia che ora è stata adottata, perché quella non è una questione di discrezionalità, ma è una questione geometrica, cioè sapere se la palla è entrata o meno, e ha risolto diversi problemi e, come possiamo vedere, ha anche levato parecchio veleno dalle nostre domeniche sera, dai nostri lunedì mattina. E quindi su quella sono perfettamente d'accordo e lo sono sempre stato. La cosiddetta moviola in campo è una cosa che non convince e non mi convincerà mai. Perdonatemi, ho la mia opinione e me la tengo. Hola Filippo Marericci, come stai? Bene, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Barcellona vola come il vento, eh? Anche con i ragazzini va bene. Hanno salvato questo record di imbattibilità, 29 partite. E adesso sesta finale in 8 anni di Coppa del Re. Gli piace. Alla 17 partite di Coppa non ha mai perso. Da quando c'è Luis Enrique non hanno mai perso una partita di Coppa. Che palle, sono noiosissimi. Alla Corte Bianca come vanno? Qua sempre euforia, sempre alta, sempre altissima. Nonostante le sofferenze con il Granada. Poi adesso qui si contenderanno Lewandowski con i cinesi per 1400 milioni di miliardi, eh? Esatto, sì. Sto aspettando, vediamo, il primo blanco che emigra in Cina. Sì, è vero, manca questo. Sì, per ora c'è ragione, non avevo fatto questa connotazione, sì, mi sembra interessante, arriverà sicuramente, visto che hanno tutti questi soldi da spendere. Però io dico una cosa, non so come vedete voi la Roma, come sta la Roma? Io continuo a pensare che non male, quantomeno ha un disegno regolare, non è quella che abbiamo visto nella prima parte della Champions League, nella prima con parte la chiesa diroccata al centro del villaggio, con la chiesa distrutta al centro del villaggio e con una difesa ancora più distrutta che prendeva 36 gol a partita. No, perché non lo so, io continuo a pensare che la Roma se fa quello che deve ha la sua chance. Chiamatemi pazzo, però io continuo a pensare che la Roma non mi sembra ancora quel livello. Gioca che anche, ma soprattutto è molto più squadra di calcio, molto più quadrata, molto più compatta, molto più ordinata, molto più serena anche, devo dire. Speriamo, perché ovviamente io, insomma, dichiarato da tempo, no? Tipo sempre le squadre italiane, quindi ho una grande, insomma, spero che la Roma possa fare la sua figura. E più il tempo passa e mi sembra che ci siano buoni delle segnali, possibilità. Tu dici. Senti, volevo farti notare un'ultima cosa, Filippo. Sul tuo giornale c'è questa inchiesta, la Gazzetta dello Sport, sul caro prezzo dei biglietti che è venuto fuori in maniera clamorosa in Inghilterra, con questa meravigliosa protesta, devo dire, dei tifosi. Grande civiltà. A minuto 77 tutti fuori, da 10.000 tifosi fuori dallo stand, per protestare contro i 77 euro, le 77 sterline che avrebbero l'anno prossimo dovuto pagare per gli stessi posti. Il club ha fatto marcia indietro, aumento dei prezzi annullato, si rimane con le solite 59, comunque non sono poche. Leggo però da questo report calcio e dal tuo giornale che la Spagna è il paese in cui, rispetto al salario medio giornaliero, costa di più vedere una partita di calcio. Sì, assolutamente. Nessuna protesta? No, solo quelli del Rayo hanno protestato, che è tradizionalmente la squadra più, diciamo, popolare o proletaria che c'è, la squadra di Madrid, del quartiere di Vallecas. tra l'altro stadio piccolo, pochi posti, loro sono gli unici che hanno protestato, e gli altri allora, sai, Real Madrid e Barcellona, i giapponesi non protestano. No, ne frega niente. E neanche gli arabi e neanche i russi, no. Che vengono, che sono i nostri clienti abituali qua, sì, no? Sì. Ormai il tifoso chiama cliente, dove che l'hanno scritto nel sito, sì, sì. Forse proprio del Liverpool, i proprietari del esatto. Liverpool o del Manchester United. E i clienti suddetti si sono pure incazzati. Esatto. Ma quali clienti? Esatto. Però invece qui c'è un rapporto della la clientela, poi sai, è molto mobile, perché continua a venire tutti questi turisti così, no? A vedere. Per cui i grandi club non protestano, i piccoli club ma la prendono con filosofia. Ci sono delle squadre, per esempio, fa ridere il Getafe, che potrebbe avere un bacino d'utenza enorme, visto che è a 10 km dal centro di Madrid, sì. Questi sono capaci di metterti sì, biglietti a 40-50 euro per partite diciamo, contro squadre piccole, e infatti non ci va nessuno. Certo. Però loro se ne fregano. Nelle squadre dove diciamo che hanno un gruppo di tifosi, una tifoseria comunque consistente, a cui piace andare allo stadio, sì. Legata, i tifosi continuano a pagare. Fino a quando. Vediamo fino a quando. Grazie Phil, ti devo salutare. Alla prossima, Filippo Maria Ricci, Giorgio De Luca, il nostro autore, Gianmarco Ferronato in regia, Federico Bini in redazione. Ci sentiamo domani alle 2. Piatto ricco, mi ci ficco. Ciao ragazzi, buon pomeriggio.